Ogni notte cambia il numero delle stelle, i sogni e gli incubi. Se non ti posso parlare, vorrei vederti mentre dormi. Accetta il fatto che ogni uomo ha le sue pazzie e le mie sono due, divise da quella curva rosa che mi ha fatto perdere nel bosco infinito dei pensieri. Troppe analogie, la sera le sono. E sono sempre due. Scrivo una canzone per ogni risveglio e accendo una lanterna per chi scappa dal reale per creare un mondo più roseo, dove si è accettato e apprezzato. E muoio ogni notte pensando che una stella cadente si fa male per me. E mischio le parole con le stelle. Non ricordo il sole nascente. E il mio ego si fa piccino. Buonanotte a te. Buonanotte, Fiorellino. E mi chiedo, che senso ha stimarmi se non ci sei? E non mi può pensare. E muoio ogni notte pensando che una stella cadente si fa male per me. Un pensiero è come un fiore, va colto e tutto stretto, perché un nuovo inverno potrebbe distruggerlo. Amati, perché nessuno sarà in grado di farlo nel momento che vuoi tu. Amati perché è bello, perché se non ami te stesso, non puoi avere il cielo. Circondati di belle persone, perché la tua vita sia un tuffo sulla nuvola. Circondati di amore, perché è l'odio che spacca i bicchieri. Circondati di felicità, perché la tristezza ci sarà un altro giorno. E se anche tu, seduto all'ultimo banco, a ricreazione non uscivi, non fumavi, e sorridevi per non apparire depresso, sei proprio come me. Io che penso che se dovessi essere uomo, dovrei prima distruggermi e ricominciare, perché se questo è un uomo, io sono di più. Da intanto fermo, mi fermo. Ti penso, riparto.